Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Poche ore dopo, le sirene iniziarono a suonare. Mia zia allora non ci pensò due volte, afferrò i due fratelli e li portò fuori. Guardò la porta di casa, indugiò un attimo e poi se la chiuse alle spalle. Mi chiamo Federico, ho 39 anni, sono di Roma, sono nato a Roma e ci vivo e non ho mai lasciato questa città e faccio il chirurgo, per l'esattezza il chirurgo vascolare. Non sono sposato, convivo e ho un bambino, un figlio di appena 2 anni che si chiama Francesco. Palmanova, 3 giugno 1917. O essere umano, che troverai questo libretto, tu lo spedirai alla mia cara famiglia. In nome di Dio e di un morto, ti autorizzo, se tu vuoi, di prendere per te tutto ciò che io ho, tutto ciò che porto indosso. Ma questo libretto, spediscimelo a questo indirizzo, che io, se posso, pregherò per te, per il favore che mi hai fatto. Alla signora Manetti Cesira, Candeli Villa Magna, Firenze. Mia cara moglie, quando ti giungerà questo libricino io sarò bell'estinto. Io capisco quale effetto ti farà, ma ho pensato di fare così in modo che tu non stia qualche mese senza sapere ciò che mi è accaduto. Se tu credi di rimaritarti, per me non trovo cosa in contrario. Però una raccomandazione ti faccio, quella di tenere di conto della nostra piccina, che ho amato teneramente, e di trovare un uomo che sappia amarti come ti ho amato. Che quando sposai te, ti giurai fedeltà e ti sono stato fedele questo desiderio, che tu possa trovarti felice, continua a mantenerlo. E spero che tu possa trovare un cuore degno del tuo. Se poi non vuoi fare questo passo, fai da te. Se questo libretto vi giunge, sarà l'ultimo scritto che da me riceverete. Perciò con questo vi giunge l'ultimo mio saluto e bacio, dal più piccolo al più grande di voi. E da te, mia cara moglie, lo stesso questo è l'ultimo bacio che ben per iscritto parte dal mio cuore. E lo darai alla mia bambina tutte le volte che ti rammenti di me. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24 e queste parole che vi ho letto sono tratte ovviamente dall'archivio dei diari di Pieve Santostefano, con cui stiamo collaborando da tempo e con cui apriamo quasi tutte le puntate di questa settimana dedicata alla guerra, dedicata alla prima guerra mondiale. Come sapete è proprio di quest'estate che cade il 100° anniversario della prima guerra mondiale e noi apriamo quasi tutte le puntate con un pezzo che arriva da là, arriva da quel periodo. Questo estratto che ci ha mandato appunto l'archivio dei diari di Pieve Santostefano è a firma di Giuseppe Manetti, che fortunatamente è sopravvissuto, perché dice data di morte 1974, è morto a 90 anni a Bagno a Ripoli a Firenze. Lui però aveva scritto su questo libricino, che poi è diventato un diario che lui stesso ha consegnato all'archivio dei diari, questa supplica a chiunque avesse trovato il suo corpo nel caso fosse morto in battaglia, e quindi la speranza era quella di salutare con questo scritto la moglie. Questa era la prima guerra mondiale, era tutto questo accadeva a Palmanova e accadeva il 3 di giugno del 1917. Io vi ricordo che tutte le storie che raccontiamo le potete riascoltare in podcast, ovviamente noi andiamo avanti a raccontare fino a fine di luglio e poi dopo una pausa per il mese di agosto riprendiamo a settembre. Quello che potete fare però oltre ad ascoltarci è leggerci. Noi abbiamo un ebook che è completamente gratuito e che è scaricabile dal nostro sito, che è radio24.it, alla pagina di Voi Siete Qui, ci cliccate sopra e attraverso le varie piattaforme con cui potete scaricarlo ce l'avete sul vostro tablet, sul vostro computer, ovunque voi vogliate. Sono 97 storie estratte da questa terza stagione di Voi Siete Qui. Oltre ad ascoltarci, se avete voglia, potete anche leggerci. Noi continuiamo a raccontare una storia che adesso ci invia Federico. È una storia che si sposta dalla prima alla seconda guerra mondiale, è la storia di chi la guerra la subisce, di chi è a casa sua e a un certo punto si trova la casa che gli crolla addosso. Era la mattina del 19 luglio del 1943. Mio padre aveva 8 anni compiuti. Era uno di quei bambini nati prima della guerra ma cresciuti sotto la guerra, i cui primi ricordi di infanzia erano ricordi che in qualche modo sentivano la presenza della guerra. Mio padre era il più piccolo dei suoi fratelli, in tutto erano 4. Ma una sorella era morta giovane per una pleurite, quindi erano rimasti in 3. E tutti e tre, quella mattina, si trovavano soli in casa, al quinto piano del palazzo in cui abitavano e nel quale, tanti anni dopo, avrei abitato anch'io. Mia nonna e mia nonna erano usciti, non erano in casa quella mattina. Avevano lasciato i bimbi maschi, mio padre di 8 anni e mio zio Franco, poco più grande, con la sorella maggiore, che era, come si diceva allora, signorinella. Ora, sul motivo per il quale i miei nonni non erano in casa, avrei preferito sorvolare, o magari raccontare che erano andati a messa, o a comprare un cappotto o una radio nuova. E invece no, la storia va raccontata per quella che è. I miei nonni erano andati in tribunale a Piazza Cavour, in quello che i romani chiamano da più di un secolo il palazzaccio. Avevano un'udienza perché pare, mio padre è sempre stato piuttosto vago su questa storia, che mio nonno avesse picchiato una guardia. Per farla breve, mio nonno era ferroviere ed era a detta di tutti i figli, una persona onesta e irreprensibile. Un grande lavoratore e comunque l'unico che in tempo di guerra portava il pane a casa con moglie e 4 figli. Non so esattamente come andarono i fatti, ma i racconti di famiglia vogliono che mio nonno fu accusato ingiustamente da una guardia, un vigile urbano o un agente della polizia ferroviaria o chissà cos'altro, di avere rubato del carbone per portarlo a casa. Io non lo so se mio nonno quel carbone lo rubò veramente, dal momento che quelli erano tempi duri, i soldi erano pochi e il carbone serviva per riscaldare la casa, oppure se fu solamente ingiuriato. Questo non ha importanza. Non l'ho mai conosciuto mio nonno. Io i nonni ho conosciuto solo quelli materni, quelli paterni non li ho mai conosciuti, né lui né mio nonno né mia nonna, insomma. Quindi tutto è sempre filtrato tramite mio padre e mia zia, la famosa sorella che li ha salvati, che... comunque ho conosciuto e morta quando avevo una decina d'anni. Quello che importa è che ci fu un alterco. Non so se oltre alle parole volarono anche le mani, ma ad ogni modo quella mattina in tribunale mio nonno era andato per difendersi dalle accuse rivolte nei suoi confronti e mia nonna lo aveva accompagnato. In fondo Piazza Cavour era dall'altra parte di Roma rispetto a loro, che abitavano in un grosso condominio appena fuori Porta Maggiore, un condominio che secondo la logica di assegnazione degli alloggi che vigeva sotto il fascismo era stato destinato proprio ai ferrovieri. I miei nonni, quel giorno, avevano lasciato i figli a casa con un pensiero in più, però. Sì, perché nei giorni precedenti si erano udite le sirene antiaeree, ma non c'era stato nessun bombardamento. Il loro suono cupo aveva sparso inizialmente preoccupazione, ma non più di tanta. Tutto sommato, le persone si sentivano piuttosto tranquille, o almeno preferivano pensarla così. Era infatti opinione comune presso i romani che Roma non sarebbe mai stata bombardata. Un po' per la sua storia millenaria e il fatto di essere luogo di ineguagliabili bellezze, ma soprattutto perché era sede del Vaticano e mai nessuno si sarebbe sognato di mettere a ferro e fuoco la città del Papa. Ma te pare a te che gli alleati bombardano Roma? Non ci credo manco si lo vedo. Sta di fatto che quella mattina, quando i miei nonni uscirono presto di casa per andare al palazzaccio, svegliarono mia zia Hilde, mentre i 2 maschietti ancora dormivano, e si raccomandarono di rimanere chiusi in casa e di non uscire per nessun motivo, anche se suonano le sirene. Mi raccomando, non uscite di casa, chiudetevi dentro e aspettate che noi ritorniamo. E quando mia zia chiese loro il perché, le fu risposto che gli sciacalli avrebbero potuto approfittare del fatto che la gente, in preda al panico, avrebbe lasciato incustodito il proprio appartamento per rubare loro l'oro. Evidentemente la probabilità di essere derubati era nella loro testa maggiore di quella che gli alleati potessero bombardare Roma. E così, quasi a farla apposta, poche ore dopo che i miei nonni erano usciti di casa, le sirene iniziarono a suonare. Erano da poco passate le 11. Mia zia, colei che aveva l'ordine tassativo di rimanere chiusa in casa, era sotto la doccia e non ci pensò 2 volte. Si asciugò e si vestì di corsa. Coi capelli rossi ancora bagnati, andò nella cameretta dove dormivano i 2 fratellini. Senza dire nemmeno una parola, le afferrò entrambi per le braccia, aprì la porta di casa e si ritrovarono tutti sul pianerottolo. Guardò la porta, indugiò un attimo, poi se la chiuse alle spalle. La decisione oramai era presa e fu quella decisione che cambiò il corso della loro vita. Scesero di corsa i gradini, a due, a tre, 5 piani di scale, anche in discesa, possono sembrare infiniti quando ti assale il terrore. e nello scendere si lasciarono dietro alcuni anziani del palazzo, che a tre i gradini non sarebbero di certo riusciti a scenderli. Sotto il portone della loro casa c'era un grande vano seminterrato dove allora c'erano le fontane, i vasconi di travertino dove le donne del palazzo, in quegli anni, portavano la biancheria a lavare. Quel grosso locale era stato adibito a rifugio antiaereo. La fortuna volle che l'ingresso del locale fosse nel cortile subito appena usciti dal portone del palazzo, ma soprattutto che quando arrivarono i due fratellini in braghe corte, ansimando insieme alla sorella maggiore dai capelli rossi bagnati, ci fosse ancora posto per poterli accogliere. Passarono pochi secondi, non ebbero nemmeno il tempo di riprendere il fiato dopo la corsa e ci fu lo schianto. Un rumore assordante che mai avevano sentito prima. Diventò sempre più forte e culminò nelle urla di terrore degli altri condomini che si erano accalcati via via stringendosi l'un l'altro in quel buco senza uscita. Poi, all'improvviso, tutto diventò scuro. Quando stavamo lì, andavamo al palazzo, in qualche modo facevo io qualche domanda, perché poi ero io quello più curioso, non tanto mio fratello, e lui ci rispondeva, però non partiva da lui, perché evidentemente non era una cosa che ricordava con tanto piacere. In poco tempo si ritrovarono la bocca, i denti, gli occhi, le narici e le mani pieni di polvere e calcinacci. Mio padre mi diceva sempre che non si ricordava altro, che non ebbe cognizione di quanto tempo rimase laggiù, sotto le macerie, insieme ai fratelli e a tutta quella gente. Probabilmente perse conoscenza, un po' per la paura, un po' per la carenza di ossigeno. Non ricorda nemmeno il momento in cui furono tirati fuori, né quanta gente morì sotto le macerie del palazzo. Di certo, lui si salvò, e con lui suo fratello Franco e sua sorella Hilde. L'obiettivo del bombardamento alleato era lo scalo ferroviario di San Lorenzo, che distava 500-600 metri in linea d'aria dal palazzo. Ma un bel po' di bombe erano cadute anche sulle case. Io i miei nonni paterni non li ho mai conosciuti, quindi non ho mai potuto chiedere loro che cosa avessero pensato quando una volta fuori dal tribunale sentirono che gli aerei alleati avevano bombardato Roma. Quando sentirono che forse le bombe erano cadute verso la stazione Termini, verso San Lorenzo, laggiù dalle parti del Verano. Non ho mai potuto chiedere loro cosa provarono quando videro l'angolo del palazzo che era venuto giù per intero, quando alzarono gli occhi e videro che della loro casa erano rimasti solo i muri maestri e la carta da parati. Per farla breve, la famiglia di mio padre fu ospitata per quasi 2 anni durante la ricostruzione del palazzo a casa di alcuni parenti di mia nonna, a Tivoli. Poi, nel 1945, fecero finalmente ritorno alla loro casa. E una decina di anni dopo, quando ormai le ferite del bombardamento si erano rimarginate, arrivarono nell'interno a fianco dell'appartamento dei nuovi vicini di casa. Una famigliola di 3 persone. Il padre, un pugliese gioviale, anche lui ferroviere, la madre, riservata e discreta, con un inconfondibile accento della bassa parmense, e la loro unica figlia adolescente, Carla, sulla quale mio padre, di 6 anni più grande, mise subito gli occhi. Di quella ragazza, che aveva un sorriso incantevole, mio padre si innamorò e nei primi anni 60 la portò all'altare. 2 anni dopo nacque mio fratello e infine, dopo altri 9 anni, nacqui io. Qualche anno fa sono andato ad abitare nella casa dei miei nonni e tornare in quel palazzo dai muri zeppi di storia mi ha spinto a spolverare i ricordi e a ricercare le tracce di quei giorni così lontani ma altrettanto vivi nella mia immaginazione. Anche mio figlio Francesco, che ha appena 2 anni, è nato in quella casa. Ci tenevo particolarmente che muovesse i suoi primi passi tra quelle mura. Pochi mesi fa l'abbiamo lasciata per andare in un'altra, più grande. Chissà se se la ricorderà. E un giorno, quando sarà in grado di comprenderla, questa storia la racconterò anche a lui, perché questa è una storia di bambini e in fondo è anche sua. Born inside the gates of the family, hardened by a Roman machinery, cast among the building sites, the coiling wires, the shots collected, called out in the wake of a letter held inside the family gathering, mirrored beams and dog-like stretch, the wandering association murmurs in the dark confessional. As an animal. una bellissima foto quella di Federico, sembra scattata quasi da un professionista. Lui ha su una maglietta scura e ha la faccia anche un po' scura e un po' scottata dal sole. Alle sue spalle una cascata piccola ma dirompente e lui guarda da qualche parte, non si sa dove ma non in camera. Pronto Federico, buongiorno. Buongiorno Matteo. Come stai? Bene, bene, tutto a posto. Sei in ospedale? Sì, sto lavorando. Stai lavorando? Cioè, nel senso che non stai operando proprio in questo momento con un auricolare? No. Quali sono le cose più di frequenti che fai per il tuo lavoro? Stealth? Anche, sì, dico ormai cosa? La chirurgia vascolare è quasi tutta endovascolare, però insomma, oggi invece avevo un intervento open, un aneurisma della aorta, quindi... Open vuol dire che apri tutto? Aperto. Ok, sì. Invece quella roba lì che hai detto è che sostanzialmente infili delle sonde, la dico malissimo, infili delle sonde nelle vene? Sì, beh, diciamo più che altro arterie. Okay, ti chiedo scusa per... Figurati. E poi le allarghi, giusto? Sì. Anche. Vabbè. Federico, io ti ringrazio perché è una storia incredibile. Devo dire, lo commentavamo prima, tutta questa settimana in cui stiamo raccontando storie legate alla guerra, che sono per lo più di seconda o terza mano, perché ovviamente è più facile che sia così, sono storie incredibili. Ieri abbiamo raccontato una storia legata ad un pilota che scappa da due caccia inglesi che lo inseguono, e qui è come il rovescio della medaglia, no? È stare a casa propria e trovarsi invece delle bombe che cadono dall'alto. Tu quante volte l'hai sentita raccontata questa storia, Federico? Beh, parecchie volte, però come dicevo oggi a Margherita, il racconto più che altro non veniva da mio padre. Eravamo noi, più che mio fratello, a chiedere, perché certo, ci interessava, e lui, diciamo, sì, lo raccontava sia lui che mia zia, ma insomma come se non volesse... parlarne, o comunque se volesse parlare fino a un certo punto, ecco. Tra l'altro, immagino che non era un ricordo proprio piacevole. Questo, guarda, a noi invece incuriosiva molto. Lo immagino, è un tratto comune anche proprio delle storie che stiamo raccontando, cioè le persone come te, figli, nipoti, dicono ma l'ha raccontata una o due volte, poi non lo ha più fatto. Invece in quella casa in cui adesso non sei più, giusto? L'avete lasciata, dicevi? L'abbiamo lasciata perché l'ho affittata, perché era un po' piccola e quindi col bambino avevamo bisogno di spazio, perché chiaro, era grande. Chiaro. Allora, però è ancora tua, insomma, fai, sì, fai fatica a immaginare. Spero di non venderla mai, lo spero. E sta a San Lorenzo, giusto? Diciamo che è appena fuori Porta Maggiore, non proprio nel quartiere di San Lorenzo, okay. Ma qualche bomba è caduta anche fuori San Lorenzo, quindi una di queste è andata a finire là. E comunque è molto vicino, saranno 500-600 metri in linea d'aria da San Lorenzo. Ed è vero quello che dici, cioè è vero oggi camminando per Roma, no? Che sembra impossibile che abbiano bombardato quella città, e fa effetto quello che dici, che ormai sembrava impossibile sì, che venisse bombardata. Sia da quello che poi ho letto, sia raccogliendo le testimonianze di persone che erano vive allora, nessuno ci credeva che una cosa del genere sarebbe accaduta, invece è accaduta. Oggi te ne accorgi girando per Roma, perché ogni tanto nel centro storico, perché poi anche sai, i bombardamenti anche successivi, insomma in totale una cinquantina, vedi magari qualche palazzo un po' più moderno intorno a palazzi antichi. Ah, e allora certo, te lo spieghi magari nelle zone di Esquilino, Monti, insomma anche nel centro storico vero e proprio, ti puoi rendere conto che qualcosa è successo, insomma. Chiaro. E sembra subito Caro Diario, quando si elencano in serie dei quartieri di Roma, sembra subito quell'episodio di Caro Diario in cui lui gira per la Vespa per le strade della città. Casal Palocco, ti ringrazio molto Federico, è stato davvero un piacere, grazie ancora per la storia, ti lascio tornare ad aprire cuori e entrare nelle arterie. Grazie Matteo, grazie a voi, buona giornata. Ciao, buona Federico, buona giornata a te. Ciao. Grazie, ciao. 349-238-6666, non c'è come, appunto, come nominarle le storie per farle arrivare. Io vi ricordo che questa settimana noi continuiamo a raccontare storie legate alle guerre. Apriamo di solito con delle storie della Prima Guerra Mondiale che ci sono arrivate dall'archivio dei diari con cui abbiamo questo piacevole incontro, e ogni giorno apriamo con una storia di quelle, però poi ogni giorno raccontiamo una delle vostre storie che sono arrivate tramite il papà, tramite gli zii o tramite i nonni. Continuate a scrivere, a inviare i vostri racconti. Voi siete qui, @radio24.it, mandateli per tutta l'estate, la mail aperta, e noi a settembre torniamo a raccontare le vostre storie, quello che volete, una pagina, massimo due. Voi siete qui, @radio24.it. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Pietro Lacorte, grazie a Margherita Ina, grazie soprattutto a Federico. La storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa.